7:30 di Santiago e Radio Super 5 Le Corniciare. Thank you. passaggio, Pierpa. 1-0-1-3. Cappa, confermo e ci metto anche un chiodo. Santiago 9, Radio Super 5. Ma Massimiliano c'è. Qua è, dille, sicuramente a me neanche mi ascolta. Qui è Santiago 1 e la Radio 1. Sta arrivando Santiago 1 e la Radio 1. Faccio la... ci sentiamo presto, buona carica e a frappè. Va, un secondino, prima di chiudere voglio provare un microfono su questo apparato, un secondo. Che non sia qualcosa lì alle porte che c'hai bisogno. nazionale ha aumentato un po' di tutto da me. Prima ho buttato 5 punti, hai perso almeno 9-20, adesso sei 9-25 a torna. Vuol dire che anche tra canali c'è differenza. Sì, l'abbiamo appurato anche poco fa quando ero in barra, e quando siamo passati sul 45 e mi ha detto che era molto meglio. Vabbè, ma quello tu può essere, lo sappiamo bene, che alle volte se convoglio a te il 45 è un canale che mi suona meglio. Ma anche sul 21 è molto migliore, invece di canali bassi spara di Giuseppe. Non ho fatto vedere, come vedere se si accorda meglio nel canale in alto. Cazzo, ma cioè, stiamo parlando delle cose diverse, stiamo parlando che qua, quando succede questa cosa, non può essere che perdo di segnale così tanto. Adesso è di un segnale che è fortissimo, arriva quasi 9-20. Cazzo, come può essere che non c'è segnale sul 5 e sul 21? Vedere magari di trovargli un punto e dove non riesce a raggiungerlo, spostarla di appena, cioè fare qualche prova, non è, è impossibile. No, posso provare, adesso non faccio niente, posso provare a spostare un po' di più la tappa verso il pubblico. La cosa che dava a pensare è che se un gioco è quando mai sta acceso tutto il giorno questa torre qui, se è un elettrodomestico un'ora, metti che sia anche 2 ore e dopo si deve staccare, cioè non è una cosa continua, mi hai capito? Chissà che balla è. Alla mia è una supposizione di un gioco, perché magari il giovedì c'è entrato anche gli altri giorni. Una supposizione mia, perché magari la domenica attaccano qualche giochino, i bambini e cose, tanto tra gli attaccato. È una supposizione mia, come potrebbe essere qualsiasi altra cosa. Beh, certo, certo, però poi la cosa strana anche di domenica, hai capito, verità? Poi può essere un qualcosa che stia scaricando dati la domenica per il lunedì, o che stia ricevendo dati per essere pronti per il lunedì. Non lo so, guarda, l'altra volta, adesso era un po' che non... Poi, la domenica va via verso quell'ora, 7:30, 8 qualcosa, tutte le volte sempre così. Chissà che balla è. Quella cosa ancora più strana, che Antonio non lo prende. Antonio non lo prende perché è diverso la posizione dell'antenna. Secondo me è la posizione dell'antenna che c'ho io, la mia rimane chiusa l'angolo, capito? Probabilmente lo prende verso la mia antenna, questa roba qua. Adesso comprerò l'intenzione di comprare un palo nuovo. Infatti sono in mano un palo di 2 metri. buona carica Antonio e buona carica per Paolo, ce la riascoltiamo dopo. Ascoltiamo dopo. Caprai, buona carica con tutto un prosieguo. Casomai ci sentiamo più tardi a vedere se è scomparso per un periodo. No, io avevo 45 per esempio, non lo sto facendo niente, ma sul mezzo lo faceva tutto. Se non al limite lo possiamo vedere anche dopo, mi fa. Mi faccio una scappata e proviamo a vederlo, questo, questa, ti do una mano e vediamo cosa possiamo fare. Magari gli possiamo mettere un qualcosa per spostarlo, per sollevarlo, ma proprio se riesce a risolverlo, cavolo, se c'è la possibilità. No, so, vediamo, vediamo, lascio tutto così per adesso, poi vediamo. Vediamo, io casomai che dopo guardo se c'ho qualche cosa, se sposta solo, provo a spostare la bottiglia d'acqua. Fammelo sapere, Pierpa, tanto io coricarmi non mi corico al dopo pranzo. Se devi fare qualcosa o mi fai una bassa oppure ci sentiamo qua, senza nessun problema. Scendo e lo vediamo assieme. Capa, va bene, ok, dai. Buona carica, buon proseguo di giornata, ci la riscontriamo tutto più dopo. Buona carica anche a voi, ciao ciao voi, ciao ciao. Perché magari si sbucca più fuori e la radiazione migliore. che metto il ferro c'è qui, se per poterlo fare si può ingegnare, dai. Sì, no, Yeah. radiazione non è radiazione, c'entra migliaia di volte superiore. Perché, non so, ma per dire radiante fuori che lì la cosa è cambiata o cambia. Infatti, allora domani compagno c'è cosa, poi non mi sbaglio io, rasoio va a Dusa, che non veniva a vedere chi si manda, e tu sei andato a comprarlo, lui a cambiare se l'è incazzato. Ma lì forse è risotto Dusa Visò, cosa hai preso di là a fare? E non ti vedrai a dire tu, ma ci ho preso, Dopo non ce n'erano di quelli grandi, tu l'avevi comprato perché la torta di quelle grandi e c'erano i medi piccoli, ma i grandi non c'erano. Infatti io sapevo che non ce n'era più la giornata giubilata a Maghis, quella c'era il chiesto alla roba. Che io ero sempre fatto lì, non avevo visto il nome di diretta. Io cavale di Dina, mi devi dare la torta. Sì, no, cosa vuol dire la chiesa? A dirmi. Voi sapete già quanto vi deve regalare, e io volevo che vi ci accalate uno cliente da cliente, ma noi ci siamo venuti a portare. Allora non vi regalo di portare la va. E se non la buttava, stavano da qui, si dava di va. Anzi, a me mi deve essere la calcolatrice, il manager, e non sbagliava, impaccava la tesina e paccava. No, no, c'era affarista. Che mi sono via. Ma no, non perdonavano, quella mi cazzo, il centesimo spaccava, no, non sbagliava. Senza calcolatrice non aveva mai usato in vita sua. E come l'abbiamo fatto? Fare lo stesso, tu facevi anche conti di milioni a cosa a memoria, tutto grande. Era. Lui diceva che chi usava la calcolatrice e poi era un asino a farli a mettere i conti. Invece sì, io dopo che mi trovo anche se ho calcolatrice i conti me li voto. Eppure mamma diceva, se tu usi la calcolatrice e poi niente, non ci riesci a farli. Perché la mente non è più allenata e c'è una ragione. Se tu usi la calcolatrice i conti non li sai fare, ovviamente. Ah, quanti milioni va via, mio padre era bravissimo in matematica. Matematica, geografia, mio padre era un cannone. E ci l'ha vista? Ah, c'è una cosa tremenda. Si guarda, a fare conti che faccio male io non lo sapevo quanto c'era in tasca. Se non lo ricordavo non lo sapevo, capito? Perché io mi mettevo cliente per cliente, quello è totale, non lo sapevo. Perché io non c'avevo tempo di andare a contarmi gli soldi. Quando tornavo io lo ricontavo, ma se no non lo sapevo quanto c'era in tasca. Non pare si ricordava tutte le capitali del mondo. Poi se vi chiedevi la storia della capitale ti sapeva dire tutta la storia. Ma non sei tanto risabbia. Poi me l'aveva segnata a chiamare, sapevo tutto lì. Perché vuol dire che era una materia, mi piaceva lui si applicava, capitolate. Ecco cos'è il discorso. Dice per tirare le cose principali, fiumi, monti, laghi, insomma il mare, con chi confina, tutte queste cose qua. Sapeva tutto qua, perché c'era un cranio, siccome. Sia la matematica che la geografia. La geografia però gli piaceva molto, molto anche ripeterla, farla, insegnarla. Aveva visitato tutte le capitali del mondo, che adesso sono diverse, ma comunque prima erano come erano, le sapeva. C'è un babbo, c'era una cucina quell'uomo, cazzo di lui, non lo so io. Cazzo, in italiano così lo pregavi. Se facevo un po' più tra i due, era il superiore, erano i bondi, a Paoletto, mi voleva due libri, compiti. Infatti i professori erano sospettiti, ma come mai, cazzo, questo qui non può essere il farina del suo sale. A chi non ci serve, non ha chi se ne ambita, non preso là. E vado a cercare il libro della Divina Commedia, cazzo, vado in giro, non preso là, c'era una cultura enorme. Andiamo a vedere con i libri, beh, finivo una maniera. Leggeva parecchio. Se adesso per la campagna, nulla, a prima che si pensa che via per la campagna, quindi io bisogna tutti i cosi della campagna. Se a buttare la mia mano malaretta a buttare, non mi la picchia uno di mezzo. Andava e come che mai la picchia? 23 già la mattina si documentano, normale quello. Ci mi associano che ogni cosa si mette in mente e fa, legge i libri, tutte le notti lui si legge sempre qualche pagina di libro prima di addormentarsi. E tutti i libri culturali. Ma addirittura l'altra diceva, perché lui c'era una di quelle mie commedie, in Persica, era già diceva, ma l'ha detto, se sto dicendo che cazzo era il demonio, in italiano non ce n'era, storia, italiano, la TV, il demonio, ma non invece in matematica, era anche lui in matematica di Alan Bravo. Ma non me la muovo, è musica, materia letterale, canto italiano, storia, geografia, eccetera, eccetera. E, diciamo che quella cosa che gli piaceva di più era la musica, ha fatto conservatorio. Beh, quella è una passione. E infatti uno è bravo, lo so, si applica nella materia, io l'ho mettato, perché c'erano materie per esempio che io non potevo vedere e non ne studiavo, a chi non rimuovi lì. È così, così. No, la cultura, allora facevi la sesta, ma era come se facessi la terza superiore di adesso. Che quelli che c'erano la quinta allora, quando la frequentava mio padre, ne sapevano più di quelli delle superiori di adesso. Ma di più però, perché erano preparati in modo diverso, dovrebbe essere, no? E allora, diversi metodi c'erano. E li preparavano anche meglio gli studenti, non è come adesso. Adesso sono due andre bassi e basta la gente. E usavano la macchinetta. Sì, quello era un altro, visto che io alle elementari, che bello la macchinetta di notte, cazzo, non lì quella era la verità. E era moccio però. Cazzo, mi ha chiamato a mano. Sì, io me li ricordo quelli lì, quelli in legno. Io mi ricordo sempre questa maestra Masa Lamura che ho avuto alle elementari, che c'era sempre con questo ragazzo, questo bambino allora, perché erano alle elementari, che era un po' robustello, un po' fruttello di faccia, e lo chiamava Para, con gli occhiali, patatone, l'hai fatti con tutti. Invece c'è la cosa di Prot, questo uomo alto, ragazza, veramente ancora. Cavaliere di un livello di cui ha colpito il livello a mano, si girava la mano alla rovescia, cazzo, e si mi cuglia un dedo colpo. E questo Para, diceva, Para, i compiti li ha fatti, no, signor me, perché potrebbe mai stavano lavorando, io da nonna. No, non lo potevi portare a carattere, te la sei dimenticata, ma mi fai dire, si bruca, buca, tu li tiri gli occhiali, se ti rivolgi a quelli cavalli bici, te puoi con gli acciaffi. Brutto patatone, io non si altro, patatone, via, brutto, cazzo, la mara, io non vai, siamo. E prima dovevo arrivare a mettere un tocca a manco con un dito, e te l'immagini, prima data Oia con vari vecchi biliari, dice che se non c'erano i genitori di prestarti, se non studiarmi, cazzo, dove va a parlare di chi non si vede? Lo so. Allora sai chi era quella maestra? Ti ricordi il Norto e... Girotondo, no, l'altro come si chiamava? Cioè Girotondo Norton e poi l'altro Costanzo, come ti diceva? Sì, non me lo ricordano. E se no non ce l'avevo usato di portare in giro per le classi tirati per le orecchie, l'asino. Allora voce aveva misticato visto che portano nei bari. Angelo mi aveva detto e in più a Marco Rovoli mi ha preso per le orecchie a tutti e due, ha fatto già tre case, questi sono degli altri. Mi avvicura. Sì, venne pure una manesca di maestra, mia madre padre mi raccontava che quando erano ragazze c'erano queste suore che insegnavano, erano in collegio, avevano queste suore che insegnavano mare e urlaio, e li curiano sempre. Una volta una sua compagna ci ha messo gli spilli con la testa verso giù e le punte in alto, in mezzo a tutte le dita, ci ha messo le mani in testa, che non andava in curica, ha avuto un colpo, che ha tutte le spilli a mano, non vedi che l'ha più fatto. No, ma me erano serviti, mi sembra gli affermati vedendo e scherzando in classe questo maestro qua. Ma gli ha dato la reccia, ti seduce la cucciardica per me, non è perché ne mangi in proprio, è proprio ma adesso faccio a fare due danni verdi, grazie, in classe, io devo pulire la da, ah, vinci, senti, la mia di Malareccia, tutti i grassi, mi dici tutta la fatica. Via. Beh, sempre di questi amati di non sei già scelto che sono con un dito, ma prima era la doppia figlia di Pulo, eh? Sì, perché prima erano anche i genitori che gli dicevano, cazzo, sono tu la cuglia di Giacchi, ah, sono di Giacchi di cuglia di Indu, cazzo, non ha fatto la cuglia di Indu, non di suo livello, a Magnini mi barriera, che va portando l'inizio, ragazza, poveraccio, quel bambino, eh? Massimo. E gli ho dato un colpo di orologio a mano, perché si girava la mano e te lo girava proprio per girare la rossa, per farti male. Era una nocciola, non lo spaccavi così per vederlo. E lo prende la mano, l'ho visto. Ma tu l'elementare a sacro cuore l'hai fatta, alzati con le poste. No, le fatte a cosa le fatte? A un gallogino io. Bosco. No, perché io non conoscevo uno, si chiamava Massimo Magnini, ed era figlio di uno che vendeva al mercato. Passava con la bacchetta e andava via che i bacchetti e fini in legno, però era spesso, legno spesso, grosso, e prendete quei metri che si usavano fissi, sì. Mica, era una misera via, ma no, questa era più fine, era un rigore proprio che ci andava da lui, e era fatto di noce, cara, era un usato male in su, ma era un pepino. Lui poi non aveva bisogno di farti mettere l'unità sul banco, ti girava la mano e ti tirava le corde della bacchetta, ragazzi. Io mi ricordo che una volta c'era questo Lizzini, era di Sorso, e abitava però qua vicino a casa, di mamma, dove abitava Giancarlo Gitti, abitava in quel palazzo lì. E le fa, Lizzeri, perché fai la R come la U? E lui ha detto, e perché io la faccio così? Lizzeri, non ridere! Si muovendo, si pure ha ridito. E c'era quella risata di protesa per i fondini, no? Quella risatina, e c'è quella cosa, non è che ci offendeva, rideva. Lizzeri, non ridere, alzi al culo dalla sedia! Cavolo! Quella era. Mi ricordo sempre una cosa che facevo, si passava, mi mandava a prendere il cotone con l'altro, si passava questo cotone con l'altro perché c'era le zema nelle mani, ma e se no li vedeva pure di gravitarsi, c'era sempre questa busta di alcol quando c'era questa maestra che era. Poi meno male con quella lì avevo finito e sono andato con il maestro Serra, quello che insegna chitarra. Quello lì era un buon bravo, una persona veramente squisita. Sì, c'erano quelli bravi, ma erano tutti i suoi veri però, perché tu trasmettevano molto via sospenderti, accuditi, cazzo, mandati da un direttore, cazzo, ma che bisogna assai, no? Perché erano cattivi. Come ti vedono poco a poco, c'era più disciplina, dico così. E quando mettevano a sedere alla lavagna? Io sto scendo un attimo, vediamo un po' chi posso mettere a sedere alla lavagna. Si prendeva uno, quello che sembrava più bravo, lo prendeva, lo metteva vicino alla lavagna e il primo che faceva il casino lo segnava, quando trovava il maestro, due. No. E se no quando ti pulivano dietro la lavagna, che ho diventato fuori dalla classe addirittura, ma tu non potevi permetterti di disturbare la lezione, no? Perché ti buttavano fuori, o dietro la lavagna in punizione, oppure ti buttavano in malare se ti vengono gli altri grassi, ti vengono gli anni. Ehi, oppure io la faccio al muro. Punizione di cavolo proprio, quando mi buttavano fuori, a me mi avevano buttato fuori una volta sola alle medie. Per colpa di Bernardo, che bastardo, perché io mi aveva fatto il solletico, io sono saltato e ho mosso la sedia, stavo facendo il compito in classe, sento questo casino, la sedia è caduta in terra, e cazzo, il professore si è cazzato con me, merlo, due, fuori, te non ho fatto niente, mi sono cazzato, fuori, e mi sono mandato fuori. Da così è bella, ma te lo posso io. Se no, se ne vedo in competenza, si può essere solo che fa della matrice cos'hai, tu fura, due, allora ti devo ripetere. Poi i libri non le funzionavano, no, c'era più disciplina, c'era. Quindi ho studiato e ho cazzo, la facevano pagare. Ci mettevano molto a bocciarti, cazzo, no. Non erano i bravi di mangiare. Allora cazzo, non ti vuole ne stuccare, nulla, non ti possono fare niente. Perché se no cazzo li denunciano, capito? Adesso fermo. Beh, se denunci passano casini. Poi c'erano proprio con queste maestre che trattano male i bambini e cose. Magari qualche storia è vera, ma qualche storia sarà anche un po' inventata. È un po' la sindrome che c'è adesso, il fatto che picchiano i bambini, che si sta allargando. Una volta mi scusi, non lo so mentre prima gli passava lì dura la chiesa, che mi chiamano le buone vede che chiede a mano, certo, no, no. Adesso non si possono permettere, guarda che a quel mio compagno di scuola gli ha fatturato il vita, il maestro si chi proprio. Cazzo partiva verso 2 metri alto. Ah, sei grosso io, maledetto. Ma se ti puoi girare. Avanti, ti sentiamo. Cappa. Siamo arrivati, va. E dove sei? Ma non ti sentiamo bene. Ti sentiamo bene? Va bene, io ti sento bene. E come non avevi voglia di essere anche oggi? Niente figura, buonasera, da prima arrivavo anche alla lana d'ingresso, manca a capotto, manco all'entrata della Tedoci, boh. Perché quelle antenne non hanno massa e non imbattono il cavolo quelle piazzate sui campi, anche tutto plastica, non penso. Cappa, no, lui mi arrivava bene, boh. Forse non ha capito cosa è. Infatti. No, perché io lo sentivo bene anch'io, Se non arriva la torcia, mi è molto subito l'antenna. Cappadamma. Dove siete andati oggi, l'amico, col camper? Dove siete andati in bello? Ma tutti quanti insieme la parte o singolo oggi? Ah, cappa, va bene, lo stesso. No, pensavo che foste stati in camper insieme, quello lì intendevo di. No, ma è perché sono i camperisti che vanno tutti quanti in fila, tutti quanti nello stesso posto, capito? Vanno tutti insieme, sì, e non so se tu appartieni a questa categoria di camperisti. Poi si socializza, dice che è molto bello, io ho un'amica che lo fa e mi ha detto che è molto bello, che socializzi, conosci molte persone, vedi molti posti, stai all'aria aperta, cucini, fai. Piacere, comunque doppio rudo a questa parte, non so chi tu sia, avrai un nome nominativo, non lo so. E io sono assassari due, dai. Chiamati Radio Camper, non se ne parla più. Ciao, avanti. Sì, è bello avere il camper, quando si ingrefa, ma bisogna avere molta armonia, bisogna essere in armonia per fare certe cose. Infatti, per l'amica nostra, quando si ingrefa, quelli già è bello già, capito? Sono tutti gli iscritti a club proprio, siamo in club quelli. Ci vogliono perché c'è gente che c'è camper, barca, due macchine, moto, insomma, va di tutto, poi va pure di là. Vabbè, se noi se ci arriviamo le due macchine, quello è poco, ma sicuro. A che Roberto c'è un camper, se non è vero? Comunque, per me è così. Fa sempre le cose nel limite del possibile. Infatti, come campanotto ce l'ha il camper? Campanotto. No, io... A me piacerebbe avere un gommone più che altro, ma il camper non mi la metti nulla. C'è la macchina per scale, io ce l'ho solo scopo il tubo. Quel gommoncino e via, e si va per scarica. E mi divertirei così. Se no ti rovini la chiglia, la pizza. Adesso quei comuni sono delle barche praticamente, non sono tutti in coso, hanno la chiglia in vetro resina e quindi cazzo bisogna rispondere, se no ti ne va l'armata girando in spiaggia. Poi c'è quel cannello romino che ti dà la lavazzura, sia la lacca che lo gommone. A mettermi la benna a posto, guarda, te lo dico io quali bisogna mettere, perché devono essere compatibili con quelli che ci sono, capito? Se no ti fanno macelli. Sì, già me l'hai insegnato, se no neanche io ne sapevo nulla. Thank you. succede a me, non sono le cose come fai tu. Esatto, io un attimo mi la farei capitare con il più espanso, diciamo, se io ci avrei guardato come si chiama, che c'era una porta, l'ho montata sul piano piano, e mi sono rischiato, perché forza già ne ho, ma l'ho fatto, ma come il momento, a infilarci una lecola e poi l'ho agganciato le stampe, però se la camera ci vuole un'altra persona, hai capito? Anche un'altra persona, perché non è facile fare questo. Te lo dico io, ci troviamo e ne parliamo. Okay. che non te ne hanno più mandato a mettere le sue, da tre parti praticamente, no? Lui mancava solo gli 80 a lui, però come lo stesso anche l'80 va. Invece l'emba sua proprio ne ha un quarto d'onda per gli 80 metri, ma va lo stesso. Invece qua sugli 80 arrivano cazzo sparati proprio, perché questa è la per tutto, io c'ho quella grande proprio. Thank you. stettina. E lui stava male, Valentino, l'ha fitto per la caduta che aveva preso, anzi è un miracolo che sia entrato per il suo, diciamo così. Ah bene, così non c'è problema. Cosa ti volevo dire? Ma adesso mi è passato di mente, diciamo, che sei caduto nelle braccia di Morfeo, perché per riposare le stanche membra, come diceva un amico carissimo. E la salvità si credo spesso, ma per pranzo, e mi chiedo, il divano, devo fare sempre il movimento, allora per non scapitare me ne farò in garage, se no così è un... dal portale, devo salire sulla mia cognata adesso. Vi saluto per il momento, dai, ci sentiamo alla prossima, perché c'è anche mio fratello, quello di Porto Torres, qua con la moglie, e quindi devo salire su io adesso. Ci sentiamo alle prossime, dai, vi saluto tutti e due, anche gli esseri del più quello all'ascolto, alla prima ho quello di Montani. Sembra che ancora vada, problemi o tu? Positivo, sì, in effetti confermo il segnale, dai. Quasi segnale 9, vabbè, devo, non tanto buona la radio, quell'attacco non è tanto buona, confermi, Gigi. Positivo, dai, gli ha detto tu, lo volevo dire io adesso, quando riprendevo. No, ti ha peggiorato la radio, ha aumentato il segnale, ma hai peggiorato la radio, Gianni. Ho cambia niente, sono uguali, più o meno sono uguali come, come uscite, come ricezione, sono più o meno la stessa cosa. Io la mia nonna è la fumo inferiore, perché io da quando la mia mamma si era messo la mano da fumo, non la vedeva più come il 75, anche qui c'ha qualche marcia in più, non so che cosa, solo sì, c'ha qualche marcia in più. No, no, no, no, no, ti stai sbagliando Gianni, perché io a Canfede, cosa ho detto, io lo sto ascoltando con questa antenna che c'è adesso, e ti dico che arriva forte, me l'ascolto benissimo, io lì, sì, no, ma com'è al Mario Master con questa antenna? Prima l'ascoltavo, ma così così, lo superava, si può dire che lo superava Falchetto, invece adesso lui arriva molto forte con questa antenna. Mario Masse, io l'ascolto a volte la mattina lì a prima di Macomer e mi arriva fortissimo Mario. Sì, perché avevano anche lamentato altre persone che ci avevano la 5 prima, poi avevano messo la turbo e dicevano che la nata da 5 era migliore, non lo so, io ho preso questa lì, ripeto, hai capito, sembra che vada bene, anzi non è mortale perché viaggi, lo sai, no, che io la mattina entro, mi sento dappertutto, lo non sento gli altri, ma che è una cosa spettacolare da sentire. No, lascia perdere il camion, io sto parlando a casa, il camion è diversa la cosa, uso altre cose, altri apparati, qua non lo faccio perché non voglio avere problemi né guai, dai, né pasticci, perché lo sai com'è qua la situazione. Allora, ecco, vedo, e tu lo sai che io ne ho apparati, ne ho avuto apparati di poter, e anche qualcosa di mettere sotto, eppure io ho fatto salire tutto, uno l'ho regalato, addirittura l'ho regalato a un lineare, l'ho regalato a già più di un anno, l'ho regalato a Natalino, un valvolare, perché è stato, non l'adoperavo qua, perché non avevo bisogno di operare, non ne adopero io a casa il lineare, capito? E ce l'ho qualche lineare, ma tutti conservati, mettendo le scatole tolte e tolti proprio da dove c'ho le radio, non ci sono proprio conservate tutte da un'altra parte, no, non ne adopero, capito? Ho fatto sparire tutto, io ho tutto conservato tutto da un'altra parte, non ne adopero, capito? E in casa, in camion sì, in camion se voglio mi faccio sentire e arrivo, già, e voi già lo sapete. No, capo, no, ma io mi riferivo più che altro, oltre il camion, anche da casa quando esci un po' più avanti, già ti fai sentire lo stesso, non c'è problema. Ma tu ricordi la volta di quell'antennino che l'avevi messo sul letto, addirittura scrivevo quello. Che ti sta dicendo, guarda, ho fatto una prova ieri, capolo, l'ho messo, c'è una barra agricola, l'ho messo per terra, guarda, se ti dico una cosa, quella base magnifica la metto dentro qua, l'ho messo, per terra e tu mi ascolti a me. Sì, l'hai già fatto l'altro giorno, la prova è omicidiale, riprendi Gianni. Verticale non la conosco, ma no, ci ho modulato, ci ho parlato tanto, dai. E ti dico una cosa, Gianni, Maria Cappinera a me mi arrivava, ma com'è a Campedami da Cagliari lì, mi arrivava fino a Campedami. E lei è una delle macchine, non è, diciamo, una vecchia CP. È una vecchia CP, ma quando le girava male a parolacce era tremenda, Registrato il prezzo, capito Gianni? Quando le girava qualcuno, no? A parolacce ne diceva, ma ne diceva veramente. Sì, scusa, non ho capito perché mi si è staccato, un pilota si è stato l'apparecchio, mi senti? Aspetta, un prezzo si faccia bene. Ho detto, quando la pigliava a parolacce, questa Maria, era tremenda, offendeva, ma a parolacce grosse, lì, Avanti, mi è sembrato Massimiliano, tu sei chi era? Avanti oltre. Io sono là, buonasera a tutti, non ho fatto ascolto, ho sentito a te Gianni Capri 2. Positivo, ma forse ha avuto problemi Gianni Capri 2, ha avuto problemi, qualche spinotto o qualcosa. Ti prego subito, scambio parato. Sotto il grattacielo lì che sta modulando la faccia lì tra Via Rizzaria e Monterestre lì. Falco 2 avanti, Falco 2 a Falco 1 avanti. Ciao, mi sentito Massimiliano, no, ho avuto problemi io adesso, ho qualche spinotto, dai Gianni. Non c'è problema, mi hai sentito ben entrato Bulldozer. Ciao, buonasera, ben entrato, mi hai sentito anche a te. Quindi io voglio fare una prolunga, e ci ho messo macchino fuori, io sono toccato tutto sul tavolo, tranquillo, e niente. Mi ha fatto questa prolunga, abbiamo fatto tutti gli attacchi mitra. Positivo. alla benemera. Thank you. affitto. Ma mudra tuttora, amico, questa rizza, si è sempre in baracchino, capito? Thank you. fatta a Benevento, ero fuori, capito? Io la scuola l'ho fatta a Benevento, capito? Però la fregatura mia, sai cosa è stata, Falchè? Ma Falchè, o Gianni, che io me ne, quando non ho firmato per i 3 anni che sono andato via, io pensavo che fosse tutto finito, invece no, è tutto finito a me, poi nel 76, a metà 76 mi è arrivata la cartolina e mi ci hanno buttato all'esercito, hai capito? E mi hanno fatto fare un anno d'esercito lì a Cagliari, capito? Come sono arrivato non ho fatto carro, non ho fatto giuramento, non ho fatto nulla, mi hanno subito graduato, ma non graduato, perché mi hanno graduato dopo 3 giorni che mi hanno dato le divise, le cose mi hanno dato i gradi, capito? Ed ero caporal maggiore e potevo essere sargento pure, quando mi sono congedato. E mi hanno fatto fare un anno in ufficio, però me l'hanno fatto fare già un anno di graduato di militare, mi hanno fatto fare lì a Cagliari. Quando ho fatto la visita militare ero giovane, però succedeva quella roba lì che ho fatto congedare dall'ospedale militare, con i disturbi cardiaci, capito, ce l'ho ancora il congedo e loro però come lo mettiamo, se lo mettiamo, non dipendente da contro di servizio, per non darmi la pensione. Comunque l'ho fatto per non succedere quello che ho invitato a te, altrimenti mi avrei fatto un anno di militare. Sì, a me me l'hanno fatto fare, però ti dico una cosa, quello del carabiniere ce l'ho nel come si chiama, nel coso dei contributi, ha detto che ho fatto le cose, ce l'ho e c'ho quello del carabiniere e l'anno del militare, tu lo sai, ce l'ho tutto, tutti ce l'ho dei contributi. Thank you. 70 euro. Poi questa seconda mano dobbiamo vedere se è nuovo, se è buono, perché tendono a rovinarsi parecchio l'M300 e poi me la fanno un lavoretto senza la regolazione delle come, che poi lo puoi fare con un trimmer all'interno, le fai un buchettino e te lo regoli tu a piacere. Io l'avevo portato in questi M300 tutte quante da, avevo un casino io di quell'M300 Massimiliano. Perché mi hanno detto che si consuma questa carbonella, capito? Ma c'è un rimedio, hai capito? C'è un rimedio e molti li buttano via per questo motivo, ma io le portavo da Giancarlo e Giancarlo e a tutte le altre uscivano anche meglio dopo, capito? Ti mette un trime in più e te lo regoli, tu lo fai le prove e te lo fai un buchettino nel coperchio, là dentro cacciavettino e te lo regoli a piacere, te lo puoi entrare a regolare quando vuoi, capito? Le sta a finire il microfono. Anche messo bene, quello si può pagare una cosa di seconda ora. Non lo so, 40 euro, non lo so. Di meno, se è buono, per, guarda che sono 70 euro, te lo sto dicendo, 70 euro costa. 30, 40 euro. Buono, nuovo, 40 euro, Massimiliano, se poi inizia a salire di più, no. Però, da 40 euro in giù, dai. No, io cercavo più che altro, non tanto le metto a 100, ma un cambio più 3. Come più 3? Ma perché questo è il 1300? Vediamo. Sa perdere il 1300, da ne fare il 1300. A me non mi è mai piaciuto, io ce l'avevo fino qua, se lo avevo buttato lo mettevo, pure ti l'ho dato. A Cavinuccio quello di Sino l'ho dato. Il mio è un 1300. Un 1300 è un tamer più 3. Un 1300, non quello da tavola, da tavolo, quello fa il male, l'M300. E ho avuto un casino, io l'ultimo l'ho dato al Gabinetto, era sempre lì buttato. Devo ricordare, ce l'avevo di nuovo. Comunque, tra quello lì poi, con macchinette la base, e una scatoletta da intorno ai 500. È positivo, positivo. Positivo. No, però quella è per cambio, da far vedere a qualcuno. Anni da 24 o da 12? Da 24, 24. Positivo, positivo. Adesso vediamo lui cosa ne vuole per tutto. Hai capito? Adesso una scatoletta è già adatta pure. Adesso la vediamo prima com'è, come non è, se è nuova, se non è nuova. Tutto va bene. Io penso che una cinquantina di euro gliela porto via. E da scatoletta? Via. C'era quell'amico mio? Quell'amico mio c'era. Cosa amico tuo? E di quelli che conosco io. E uno ne ha ancora con me. E allora poi se l'ha cambiata. Prima ce l'aveva Giorgio ce l'aveva un 501, poi il 750, no, è già sempre il 750 lui. E poi Gabriele il 750 gliel'ho venduto io e c'è il 1200. Coso c'è il 750 Manuele. E niente, che ce l'aveva era Giorgio, se lui ce l'aveva. No, ma non era roba di loro, capito? Positivo, allora niente. Ma perché lui ce l'aveva anche Giorgio Bimbo ce l'aveva, mi fa. Ma anche Giorgio del Bimbo ce l'ha, se l'ha portata qua, che è caduto qua, capito? C'ha un 7,5, ma dov'è? Poi c'ha 7,5, anche Giorgio ce l'ha 7,5, ma ce l'aveva anche a 501 Giorgio. E no, questo lo posso dire, comunque, per adesso c'ha 7,5 e l'ha piantato anche. È positivo, positivo. E quindi adesso vediamo un po' cosa ne esce fuori, cosa ne vuole, cosa non ne vuole, poi adesso vediamo. C'è sempre una batteria o due batterie? Chi? Tu, cosa c'hai, due batterie o una batteria? Io? Via. Io c'ho sempre quello. No, non ho mai capito, non va a servire a te questo. scende parecchio di potenza, però funziona bene. Allora, dico una cosa, che quello piccolino mio, quello che è dato a Pierpaolo, quello lì, no, più volte del 7 e mezzo. 12. Tutti e due attaccati a 12, mi hai capito? Prima provate uno, poi provate l'altro. Quello piccolino è da più di quello grande. No, io ti ho detto che già vanno così. Io sono il grande. Allora, fate il conto che quel 7 e mezzo, attaccato a 12, non arriva a più di 150 watt. Diavolo. facevi i passaggi attaccato troppo lunghi e gli altri due non li brucia. Un altro passo per... sì, confermo. Senta, la società antenna da tempo ancora non è così buono la potenza ventilare sul tetto per sostituire l'antenna. Dunque, quando il tempo si stabilizza alla grande, allora si può fare anche il lavoro. Adesso non vale la pena salire su, anche perché non è una cosa così urgente, non è un problema. Comunque confermo, le antenne è metà male, ci manca la metà dei radiali, la tua è bassa e dunque siamo lì. Va bene così, poi le condizioni tra l'altro di conformazione territoriale tra me e te non sono le migliori, perché aggiungi tutto a queste cose qua ed ecco il risultato qual è, ci sentiamo bassi e bassi. Non fa niente, se ne state sentiti e poi arriviamo a fare lo stesso. Vai ancora Gianni, tu stai girando. Una vittola dietro, si vita da zona e si apre tutti i tutti e due venivano tanti il microfono, e c'è dentro un trimmer per l'eco e un trimmer per l'amplificatore, dove puoi regolare il tuo secondo dei tuoi gusti, capito? Poi però l'eco lo puoi utilizzare, lo puoi usare anche dall'esterno tramite lo slider che c'è, capito? È un potenziometro alla vita praticamente, che qualcuno alle volte si è anche lamentato perché non funzionava bene. Io dico solo che bisognerebbe trattare bene una cosa, perché questo ci sono anni e anni e non è successo niente, dunque mi va bene così, avanti ma si vede. Sì, ho capito, tipo ho fatto a scivolare all'eco, però no, diciamo che se vuoi l'amplificazione potresti mettere anche un potenziometro piccolino dietro con un pomellino e la massa aumentarla, se vuoi proprio volendo fare una cosa terminata. Allora comunque no, la modulazione è bella, capito, perché è molto amplificata e niente, c'è questo tantino di eco e lo volevo mettere su un apparato normale, capito? Visto per non avere il classico CDE. Costruito per gli apparati quasi d'epoca, dai, non proprio quelli modernissimi, adesso non so con quelli modernissimi fino a che punto vado, capito? Ma io lo sto usando con la Paglietti in questo momento, la Paglietti è un apparecchio molto, molto vecchio, un apparecchio che avrà un 25 anni, suppongo, forse anche di più, e dunque so che ti è andata molto bene a questo. Esatto, però mentre ad altri magari può uscire più forte come medio alti oppure come bassi, capito? A secondo dall'abbinamento che si fa, insomma bisogna essere sicuri. Va bene, dai, d'accordo. Ripeto, pure l'eco. Adesso, ecco, adesso penso che ecco in questo momento non ce ne sia niente perché l'ho tolto del tutto, probabilmente sia abbastanza anche l'amplificazione, dammi qualche ragguaglio, vai. Sì, l'eco è sparito, la radio è più bella, più chiara secondo me, però se io si è abbassata totalmente, diciamo che è diventato quasi un microfono normale. Infatti questo microfono che si deve utilizzare così con un appuntino di eco perché ti dà un minimo di profondità e diciamo anche la bellezza della radio diventa così foto del tutto, in effetti hai ragione, diventa un microfono quasi normale, però se tu dai ancora più profondità diventa anche antipatico, perlomeno a me per i miei gusti la penso così, mentre invece così come lo tengo io è una soluzione diciamo abbastanza globale. C'è stato un break avanti di... buonasera, è la ora, datemi un controllo di radio, non questa parte Daniele, dai. È la ora? Perché tu ci dai giri, giri, che non ascolto, con la vaina un po'. Buonasera Daniele, mi sembra. La radio tua, la mia persona, la radio tua è basta, non so dagli altri amici come arrivi. Dai, uno, soltanto in uno. Aspetta un attimo, guarda. 3300. Vedete, quello che funzionava bene, bene, e funzionava bene anche nel fare le più belle a tavolo su quella apparizione, ricordo bene, sì, aspetta, no, il tarne più due forse, ma no, non lo ricordo bene, sinceramente. Comunque, ho capito che va bene, sì. Senz'altro, lo faccio vedere, prepresi. Okay. sicuramente lì ci sono da cambiare le valvole. Giulio, dai, i gusti, va bene. A me quando sono a casa mi di da dire, da potete dire, non c'è nessun difetto, va benissimo, amplificata, potente, chiara, soprattutto, insomma, anche quelli che deve avere un microfono come si deve, tutto lì, ma si vedrà. Perché questo va benissimo, non bene, benissimo con la radio, di quelli altri non lo so, ma a me piace così. E devo dire che ho avuto modo di ascoltarti con tutti gli apparati che ho, e la radio è sempre una bellissima edizione radio, ma ti giusto veramente, ne vedi? Oh, Valeria! Uscire fuori, bere con gli amici, a spendermi 50 euro, ci metti due minuti. nel 72, praticamente 38 anni esatti, perché siamo al 2010, 38 anni, e ho solo comprato, non ho mai e poi mai venduto niente, niente di niente. Quando qualcosina l'ho data, sempre di regalo. E poi tra l'altro io non ho mai fatto nomi e chi l'ho dato non lo farò mai, perché io sono fatto così. Per me la privacy e la delicatezza delle persone è una cosa molto ma molto importante. Dunque, per esempio, io non ho mai venduto niente per fare dei soldi. Li ho regalati, ho regalato degli apparati, ho regalato dei microfoni, ho regalato anche materiali vari come cavi e antenne per macchina, PL, tutte queste cose sì, non ci sono problemi. Qualcuno me l'ha anche cambiato, qualche PL, qualche apparecchiatura così, però io non ho mai e poi mai venduto niente per fare soldi e non lo prenderò mai, perché tanto non me ne tocco la fame, capite? Sì, ma è che non sai cos'è, che poi alla fine magari un domani, no, se per esempio uno decide di lavorare, un domani ti può salire il pallino di rimettere tutto in funzione, apri la scatola e c'hai tutto, hai capito, e c'hai sempre le apparecchiature che uscivano una volta bene e tutto. Fino a quando ti vendi tutto, poi se hai l'intenzione di modulare, devi ricomprare tutto. È roba che c'era 20 anni fa, oggi mi dirai, sarà tanta roba vecchia, non c'erano i canali di sopra, tutta questa roba qua. Però erano radio sempre, che sono uscite sempre una meraviglia. Tu radio del genere non le troverai mai più in giro. Infatti è proprio così, perché sia elettricamente che meccanicamente apparati come li facevano una volta non ne faranno mai più, perché chissà, il progresso è andato avanti e le apparecchiature costano quello che costano, ma non perché sono costruite meglio, semplicemente perché sono più sofisticati e dicevo bene, praticamente con più canali, con più pomellini da utilizzare, queste cose qua, prima guardiamo, tu vedi una scatoletta, 4 pomellini, 5 pomellini, un selettore dei canali, però era magari uno spadiglio quant'altro e andava benissimo, selettivo, tranquillo e molto ma molto stabile, senza scivolamenti, frequenza, tutte queste cose qua. E poi non abbiamo la robustezza meccanica degli apparecchi di allora, perché sono di gran lunga superiore, proprio alla grande. Oggi possono essere esteticamente più belli anche, possono essere più coerenti nel fatto dell'elettronica, perché magari che so io ha un dispositivo elettronico in più e tutte queste cose, ha 400 canali o 4.000 canali, perché io ne ho uno grazie a che ha roba di 4.000 canali, perché vado avanti a un'erta alla volta, per cui immaginate, che se dovessi considerare un'erta, cioè un canale, suddiviso in 10 erta, praticamente sono 10 canali, moltiplicati per voi in AM, FM, CSD, USB, CW, eccetera, eccetera, diventano una serie come 4.000 canali, capito? O materiali, quindi ma sono oggi uno è sempre su tre canali, certo, però magari se c'è qualcuno che non ha la possibilità di ascoltare centrato al 100% e si è sempre riportato, capito? Materiali, non so se mi sono spiegato, se ho fatto un discorso un pochino complesso, ma penso di essermi spiegato ugualmente. Sì, ho capito benissimo, Giulio, ascolta, un secondo si è svegliata mia figlia, Giulio, ti devo lasciare per un secondo, riprendo fra un po'. D'accordo, Massimiliano, perché c'è intanto mi guardo i risultati della televisione, va? Ok.